fanno i bianchi io non li invidio mai, non mi piacciono. Ho detto ordinate quelli macchinite che quelli non li vuole nessuno. E li abbiamo ordinati ma non ci rimandano. Odio i poveri noi. Vanno sempre bene. Cava gaba. Sì, va bene, sicuramente era quello, ma uscivi come se fossi in banda laterale, la c'è presente? Sì, ce l'ho presente, sì, stavo intermodulando. E vabbè, dillo come vuoi tu, come vuoi, tu dico parole pompe. Intermodulando, vabbè, adesso sappiamo una cosa in più. Avanti, Claudio. Beh, certo, c'è dietro diretta, c'è intermodulando. Va bene, adesso intermodulo io, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, per il momento per me QRX siete e mi preparo per portare il cane. Ti prendi già. Da oggi entro i dita bisogna essere a casa. Cazzo, tu mi senti a me la canta di vite, la canta di vite c'è qui a Puttinoce, lo dico là. A canta di vite Filippo ha cagato un muro in via Napoli. No, ma sai cosa c'è? Che a volte me la prendo con calma, no? Mangio prima, ecco, sempre lo porto. A volte rientro anche alle 10:15, così. Ma se non lo faccio più, vado direttamente alle 8 e lo porto, così almeno mi tolgo il peso. Avanti, Antonio. Ciao, classe, sentiamo dopo. Un abbraccio a Filippo. Tu il gatto a guinzaglio non l'hai mai portato, Antonio? Grazie, a dopo. No, già, io no, ma il fratello siete forse invitato a pensare di dire barugurio. Ascolta, Anto, ce n'era uno in via Grazia dell'Eta che aveva un gatto nero, e lo portavo a guinzare io, come il cane. E infatti io mi sono fermato a guardarlo, cazzo, questo gatto era proprio ubbidiente, gli stava appresso tutto quanto, capito? Lo portava a guinzaglio, no, ci sono i guinzagli per gatti, non è, magari no, che non li vedi in continente, magari ci sono. E questo qua di via Grazia dell'Eta lo portava in giro, l'ho visto più volte. Guarda che Cristian, mio fratello, quando d'estate va a portare a papà a fare una passeggiata, molte volte lì a Balai, a portatore si sente al mare, lo porta il gatto a guinzaglio. Ma il gatto di Cristian sta a guinzaglio, che poi sarebbe il gatto di mia figlia, perché quello che ho io è il mio. Ah, pure bariatevi prendi. No, è successo così, che quello che ha Cristian, praticamente l'abbiamo trovato in mezzo alla strada, stavo scendendo in campagna io, e l'ho trovato sulla Woody, proprio in mezzo alla strada, mi sono fermato per accogliere, era un pugno di pelo, non sapevo dove metterlo, volevo mettere sul bordone marciapiede. E poi la donna sono stata lo ammazzano, quindi mi ha fatto bene, sono stato di sì, è colpa. Io ho detto vabbè dai, portiamolo in campagna da nonna, né tanto nonna né altri, no? Di qua ci sei. Eia. Poi e l'ho portato lì, e quindi praticamente da lì poi se ne è sempre occupato figlia. Poi un giorno nasce una cucciolata in campagna di mia mamma, di gattini, e questo gattino che esce io a casa, una mattina era piccolo, un battuto, tutto bagnato, stava piovendo, a dirò che io sono andato a trovare il mio babbo una mattina, era prima, poco prima di Natale, infatti adesso Natale fa 3 anni, e mi si è messo sul piede, io camminavo e lui rimaneva sulla scarpa, io dovevo rimanere, allora me lo sono preso e me lo sono portato con me in campagna, poi io in campagna non è che ci vivo e quindi, ma non l'abbiamo fatto in campagna, poi alla fine mi doveva ancora rilasciare, ho detto vabbè portiamolo a casa, da lì è rimasto con noi. E se no ti toccava scendere ogni giorno a portare da mangiare tutto quanto, è più comodo averlo in casa, gli dà da mangiare lì e via. E poi se già diventano mansuiti, anche se sono un po' selvatici, poi diventano mansuiti quando sono a casa. L'unico gatto che a me non mi piace è il coso, è siamese. Quello lì fa dispetti, graffia tutto. Cioè va mia sorella, non ti potevi sedere nel divano con il braccio sopra il braccio, che come pendolava il braccio te lo graffiava. No, lui già è tranquillo, è un tranquillone ecco vicino. No, ce l'ha l'istinto a salvare. Quando è, come si dice, nelle sue, inizia a graffiare il divano, allora lui può gridare. E se vuole saltare, mi ha rotto la zanzariera perché vuole uscire fuori dalla finestra, ce l'ha quel suo di selvatico, però per il resto è tranquilla, però ripeto, la parte selvatica non la perde. Antonio, vedo degli spray che li allontanano dai posti dove tu li graffi, non sopportano l'odore e non si avvicinano nemmeno. Io avevo usato quegli spray lì all'inizio, si chiamano repellenti, te lo ricordi? Sì, l'ho comprato anche io già, ma mammata, io sono asmatico. Buonanotte. Io li sfruttavo quello, capito? Prima quello lì si attaccava alle tende, il mio, all'inizio. Poi l'ho sgridato, ma devi gridarlo col dito senza picchiarlo, devi fare, non si fa, si fa. Se un giorno me lo ricordi ti do una cassetta, se c'hai il coso, il mangiacassette, ti faccio vedere, o non mi ricordo se sia il dischetto forse, boh, non me lo ricordo. E c'è tutto sul gatto, come scegliere un gatto, come ti devi comportare. Quindi ho fatto il consiglio, come si va a campo? Per esempio sta giorno in giorno tranquillo, però io ho notato che quando per esempio non ho più tempo libero, magari non lavoro tutta la settimana di fila, mi sono tempo libero a metà settimana, mi metto quando vado in campagna, quando l'ho portato preso, quindi comunque gioca, scordate, fare sugli altri, è più tranquillo. Ma invece capita quelle settimane, io per esempio non ho tempo e niente ho caso, ma lui inizia a sclerare, inizia a rompere le zanzariere, devo riuscire a essere forte, a rompere le scatole. No, guarda, io il mio. Titti non posso dire nulla, perché come è cresciuto è rimasto educato, addirittura lui passava sopra la mensolina dove c'erano gli uggiti, li scartava tutti, non ne ha mai buttato uno in terra. E io l'ho lasciato anche 5 giorni che io non c'ero, che sono andato a Olbia, e gli lasciavo da mangiare, da bere, più ciotoline e roba da mangiare, quando tornavo ne aveva ancora, immaginati, e non creava nessun problema, lui era indipendente, si coricava, era sempre era molto coccolone. No, lui è molto attaccato, tu pensa che molte volte io la macchina quando esco facendo lezioni a casa, no? Mi dice che non è sopportabile, papà, quando vai via tu inizia a urlare davanti alla porta, cerca un'ora, un'ora e mezza, sempre che sei dalla porta cercando a te. E tua figlia che facoltà si è iscritta? No, mia figlia sta ancora facendo le superiori. Ah. No, Marco ha finito e si è iscritta all'università. Lo so già, Marco ha finito, ma mia figlia c'ha 16 anni. Io pensavo che avesse la stessa età di Marco. No, mia figlia è del 2004. Ah, ecco, va bene, allora ancora mia. No, Marco si è iscritto, sta facendo lo stesso lezione al computer. L'ho accompagnato il primo giorno all'università, che è quella che c'è dove c'è la Fontana delle Conci, lì andando a Piandanna, no? L'ho accompagnato il primo giorno, poi il secondo giorno l'hanno avvisato che di non andare, che facevano tutto via telematica perché avevano trovato la segretaria che aveva il coronavirus, e quindi stanno facendo tutto da casa. Dice, ma non mi sembra vero, mi metto il tablet a letto, non mi devo rialzare né nulla, me lo metto davanti, mi ascolto la lezione, non mi sembra vero che lo mi devo alzare alle 7 a prendere il tram. Lo so, è una bella cosa, però non vorrei che un domani questi ragazzi venissero discriminati per il fatto che hanno fatto lezione a casa, che magari qualcuno penserà che il loro diploma, la loro tesi, gliel'abbiano praticamente regalata solo perché c'era il coronavirus. Io le penso in queste cose. A Marco gli hanno fatto una cosa, praticamente dovevano fare un compito, l'ha messo al computer e cosa sono riusciti, questo suo compagno di scuola è riuscito a fregarglielo e a far credere che l'aveva fatto lui, solo che lui aveva, Marco aveva un amico che è un cranio col computer, è riuscito a risalire alla data, tutto quanto, e sono riusciti a capire. Poi la professoressa, quando gli ha telefonato Marco, gli ha detto, Marco, io so come li fai tu i compiti e come li fa lui, quindi è inutile che lui mi dica anche il suo, perché non ci credo. Lo so già, capita così, al computer a me si può fare di tutto. Io poi ripeto, io che l'ho lo so, lo capisco che si può fare di tutto. È per quello che dico, mi auguro che un domani, sai, quando andranno a cercare lavoro, ok, dovranno fare dei concorsi, non gli dicano, ma tu cosa sei? Il diplomato, il laureato di quegli anni, ma in quegli anni c'era il Covid, verranno regalati a tutti quanti, capito? Ehi, non è così, non te li regalano i punti, a tutti i bini, l'interrogavami al computer pure, la professoressa era in diretta, l'interrogava, e a volte è travolerato, se Marco mi faceva scondito non parlare, che sto mi sta interrogando, per dirti, e poi l'esame l'hanno dato a scuola, però intanto, intanto hanno fatto lezione al computer, però la commissione a scuola c'era quando hanno dato l'esame quest'anno. Sì, lo so già, però ripeto, io l'ho visto in prima persona, cosa veramente nessuno vuole consigliare, c'ha ampio raggio. Sì, vabbè, vabbè. Tutto sta sempre nella serietà delle persone, non è che potrebbe avere un libro davanti e la professoressa non lo vede, guarda dal libro, cioè il libro dietro il computer e guarda. Oh, meglio del libro, un monitor 50-60 pollici dove c'è scritto tutto, come ti chiedono una cosa a te, quello ci dà la risposta, ma vabbè. Diciamo che comunque per fare una cosa del genere ti devi comunque partire premonito, attrezzato, e i giovani oggi diciamo che già studiano, sono queste cose varie, potevano succedere 20 anni fa quando si marinava la scuola, adesso i giovani oggi non hanno più molte motivi per la festa, già studiano, non è che studino a diventare matti, però studiano. No Marco, già va bene, va bene a scuola. Non mi posso lamentare, anche Manuela è stata laureata con 110 e lode, anche la specializzazione. Sono portati per lo studio adesso, i giovani di adesso sono più portati, non lo so, hanno cranio diverso. Se tu pensi che io ci sono andato al supermercato, tu, se te lo racconto ti pisci dalle risate, sono andato al supermercato, vado e metto la macchina nei parcheggi che ci sono sopra, non sopra, no? Al parcheggio la macchina, faccio la spesa, prendo le buste, parlando con la commessa, e poi gli ho detto buona giornata, me ne stavo andando, arrivo sino a casa, vado a prendere le chiavi per aprire il portone, non mi ritrovo le chiavi, ho detto cazzo, le chiavi ho perso, mi guardo bene, mi frugo tutto nel giubbotto, nella giacca della tuta che c'avevo, niente, poi mi viene un flash, e sai cosa era successo? Che ero andato in macchina e ero tornato a piedi. No, vi posso credere, te sei tornato a piedi, quindi eri vicino. E il Vitali, no, quello che c'è vicino a casa, cioè sono tornato, erano due borse, quindi non erano manco pesanti, quindi io non è che ci abbia fatto caso più di tanti, ma che di solito quando c'è acqua, quando c'è roba pesante, no? Me ne sono tornato a piedi, arrivo lì e poi mi viene il flash, ah, la macchina, ma siccome avevo roba surgelata, avevo comprato il prezzemolo l'aglio surgelato, quella roba lì che sempre si scioglie, avevo il doppione nel borsello, meno male, ho preso col doppione, ho portato prima la spesa a casa e poi sono andato e mi sono, ah, e me ne stavo dimenticando di nuovo perché mi ha telefonato un'amica e siamo stati al telefono e cose, poi mi viene di nuovo il flash, guardo dalla finestra, sarà la tasca della nube, non vedo la macchina parcheggiata, ho cazzo la macchina, devo andare a ritirarmi, sono andato burrendo. Anche a me una volta mi è capitato la crash, ma a me molte volte non so cosa mi capita, che mai adesso esco con una macchina e quando vado per lì a prendere fuori da una spesa ne cerco un'altra, perché noi ne abbiamo due, no? E quindi penso di essere andato con quella, invece qui sto prendendo la grande. E un'altra volta mi ricordo che cosa è successo, stavo per andare già a denunciare a carabinieri, allora metto la macchina in via di Umberto di fronte alle scalinate, poi ritorno con la mia compagna, ritorno lì e non trovo la macchina, la macchina, ci hanno rubato la macchina, ci hanno rubato la macchina, disperato, non mi è venuto un flash in capo, che è un colpo mio più nuda. E cosa era successo? Che noi avevamo messo nelle scalinate più giù, non quelle di sopra, ma quelle che ci sono più giù, capito? Allora, proprio dove c'è il fine, ma non l'avevo mai, sempre se la stavo cercando in quelli più su, capito? Non riuscivo a capire dove cavolava la macchina, poi alla fine mi ha detto dai proviamo più giù, c'è un'altra scalinata, magari si magari di meno male, io avevo già perso i sentimenti. Hai visto? Per quello che ho detto nel GPS. ma no, quando c'hai i pensieri e cose magari ti succede, capito? Questo è un periodo che ho pagato un po' di tasse e quindi sono solo incazzato per quello. Già, purtroppo il pagamento già lo sai, sono sempre contento perché non è, non sta passando momenti e si pagano, anche quelli che non stanno guadagnando niente stanno pagando adesso. Tu, ma a me, io mi sono pagato 3.000 euro di 7.30, non lo so se mi spieghi. Che cazzo? E cosa hai denunciato? Mi sono pagato 3.000 euro, infatti non conviene più fare 7.30 a me, perché è successo anche questo, che la mia ditta aveva preso questa agenzia che si occupava del personale. E praticamente questa agenzia, lui era uno dell'andrangheta, l'hanno scoperto perché non stava pagando le tasse, l'hanno seguito e hanno scoperto che era dell'andrangheta, l'hanno arrestato, quindi non ci è arrivato il modello CUD, tutto un casino, ho presentato la denuncia, cioè io ho fatto il 7.30 e ho denunciato quello che prendevo oltre lo stipendio e basta. E poi sono andato per fare un'integrazione, l'integrazione non si poteva fare, si dovevano fare due modelli unici, ho pagato solo per quello 100 euro e poi mi sono dovuto pagare 3.000 euro in contanti, non si poteva ratizzare, perché con 7.30 si può fare, col modello unico no. Ma nella vostra vita non c'era Pietro che faceva la contabilità? Ma chi voleva? C'è una di che pensione. Vabbè, ma quindi questa è una cosa di avanti ieri. Questa è una cosa che è successa la scorsa settimana, il pagamento. Perché poi sono praticamente ho fatto accumulo, prendevo più di tanto che dovevo prendere, capito? Quindi me li hanno sottratti dopo. Quindi ti hanno fatto praticamente, ti hanno rivoltato come un calzino. E l'anno scorso 5.000 euro, non ti riguardo. Ogni anno è così, adesso 7.30 non li posso più, se la bide in culo, se faccio il visita e cosa se la prendono in culo non me ne frega niente. Se le pagano loro le tasse, a me se non mi dà di nulla non me ne affitti nulla, perché tanto così non come le prendi da una parte e poi te le tolgo tre volte di più dall'altra. Vabbè, però già, per pagare 3.000 euro di tasse, devi... Cioè, e nonostante che li presenti spese contro spese, quanto devi guadagnare? Diciamo che c'era il tanto, perché io prendo un assegno di invalidità e bello grosso e prendevo anche lo stipendio, quindi ha fatto cumulo e ho superato il reddito. Vabbè, allora... Vedi, cosa ci vuoi dire? Che causa del somale? Ma se ti dai una base ti ripigliare all'altra, se non te le possono dare non te le diano e basta direttamente, invece di stare poi a metterti nei casini. Ma tu devi capire che l'Italia è dei furbi già, non è delle persone che la pensano come te. L'Italia è dei furbi, queste persone che come te, anche meglio di te, percepiscono diritti in tanti modi diversi come percepisci tu. Sono tutelati da persone che studiano i modi per aggirare la legge. Tu non li hai studiati e adesso vedi, te ne hanno dati a destra e li sei sentito a manca. Sì, purtroppo è così. Adesso che andrò in pensione non sarà più così, ma perché non faccio il cumulo e non c'ho più lo stipendio, quindi... Una volta che sei in pensione non sei più... non sei più tassato così, però non è anche una cosa giusta. Non essere coerenti, no, no, e ti danno 1.000 euro e poi te ne tirano 3.000, se no attaccatevi a culo i 1.000 euro e basta. Ma infatti è così. Già, è tutto quanto in mano alla politica del ladro. Qua, se fosse capitato a uno che percepisce 30.000 euro l'anno, non gli sarebbe successo, perché comunque quello c'è un commercialista con le palle, anzi, gliene avrebbe dato lo Stato. Ma io sono andato da un commercialista, capito? Il mio reddito è così più o meno. Vabbè, però se fosse stato un commercialista serio, ti avrebbe trovato il modo, ti avrebbe detto guarda, per non pagare le tasse, ha sempre cambiato le finestre a casa, un esempio, cambi le finestre di casa e ti scarichi un tamponato con la cinta. Intanto se da lì devi 3.000 euro lo Stato, ti cambi le finestre, non gli dai niente, ti senti degli risparmi. Sanno gli inghippi, invece questa qua non mi ha consigliato nulla, addirittura mi ha detto c'è tempo per pagare, c'è tempo per pagarli, ci abbiamo tutto novembre, poi l'altro giorno mi dice siamo fuori, siamo già in ritardo, che cazzo, prima mi dici una cosa e poi mi dici un'altra, ha detto, se mi ha detto che ce la faceva a me, doveva essere così, però adesso hanno detto che c'è tempo, che siamo già fuori, sì, da settembre ce l'ha tempo, invece a ottobre già eri fuori, capito? E quindi mi sono dovuto pagare una sovrattassa, mi ha detto che mi arriverà anche una sovrattassa da pagare perché c'è stato il ritardo. Sulle solite cose, a me era capitato tempo fa con il laboratorio, c'erano praticamente delle tasse da pagare, come c'è il canale, ha detto, non c'è possibile, vabbè, cioè, cambiamo gli arredi. Sì, scarica tutto, siamo arrivati di Cilice. Vedi, loro sanno gli inghippi quali sono. Vabbè, è uno di più. Io lo pagavo per quello già, altrimenti. Vabbè, ma mi ha sentito che sono andato io quella sotto casa, non è che sia... Cioè, sotto casa c'è... io ho una commercialista, quindi l'ho fatto lì perché già lo sai anche com'è, l'ho messo. Non è che potevo andare... Io l'ho fatto sempre alla CGL, al massimo pagavo 300 euro di cosa. Già mi sembrava tanto, ma 300 euro, ma non mai così tanto. Lo sai cos'è, lo so già, ma molte volte il patrono ha, popolo, delle persone che hanno vivono dallo stipendio, quelli sono i migliori da prendere, perché conoscono tutte le leggi, tutti gli scambiaggi, tutti i modi per poter assimilare e spendere meno, capito? Allora conoscono tutte le leggi, bonus di questo, bonus dell'altro, non sono per i 25, 40.000 rispetto a questo, rispetto all'altro, mentre invece vai da un commercialista normale, quello non gliene frega niente, ti fa 4 calcoli e sta lì a pensare se tu hai 20.000 ti spetta il bonus di quello, il bonus dell'altro, dice no, no, 40.000 sono, devi pagare 10.000, invece questi patronati di zona, che comunque vivono per il popolo, che è un momento, questo è un momento un po' particolare, prima ce ne abbiamo avuto altri, è sempre un momento particolare che hanno fatto gli anni. Però, ripeto, cercano sempre di venire incontro. Sì, quello sì, io l'ho fatto sempre alla CGL. Ho sempre fatto il 73 lì alla CGL e il massimo che ho pagato sono 300 euro. Mi ha detto che ero fuori di 300 euro. E niente, l'ho pagato e basta tutto lì, ma l'ho pagato a rate, capito? Manco mi disorganizzare. Però l'anno scorso mi sono arrivati 5.000 euro da pagare, ho dovuto pagare 940 euro al mese, più per 4 mesi, più un mese mi hanno preso tutto lo stipendio completo. Ma poi da cosa sei campato tu? Vabbè, io ho anche degli assegni, te l'ho detto, ho degli assegni praticamente di validità. Ah, quindi il reddito, cioè i soldi ci sono, cioè diciamo che ti sei mosso male tu. Sì, i soldi ci sono, certo, se no non mi avrebbero fatto pagare tutte queste tasse, però capo, io dico, se ti danno questa pensione di validità, se non te le possono dare tanto te le diano di meno, però capo, poi fatti che ti facciano trovare giusto. Ma a quel punto eri tu che ti dovevi tutelare, chissà che quando prescrivisci un reddito in un certo qual modo quello che sei dichiarato e devi dimostrare che lo stai spendendo, devi farti magari consigliare da un commercialista, uno commercialista, perché quelli che trattano aziende, che trattano soldi, no? quelli commercialisti di zona possono dire sì, non paghi la corretta perché, che ne so, paghi il livello di corretta perché non sono di disciplina, però se avessi dovuto far tutelare da queste persone, che loro lo sanno meglio, ti possono dire guarda, fai così, che ne so, ristrutturati, porte della casa, un esempio. Sì. Vabbè, purtroppo meglio che non ci pensi, perché tutto ciò che risparmi poi lo devi togliere una volta, è un casino. Ogni volta è così, 8.000 euro l'aiuta dello Stato. Ma guarda, io infatti molte volte fare i conti, ho deciso, devo pagare delle cose, dice, sono i soldi da spendere, metto le finestre nuove. E ho fatto un preventivo, adesso mi fanno due preventivi, uno ce l'ho già, me ne fanno altre tre e cambio le finestre. E le metti di quelle in plastica, di quelle in plastificato? Sì, le sto mettendo in PVC con i vetri anche sfondamento, interni, con le norme, quelli grossi, anche viso, anche l'altro, che non ci passa la bomba, che è una futura bacca che alla fine ripulisce. Ma tu, ma sei al corrente che adesso stanno dando il 110% per cambiare i fisi, tutta questa roba qua, lo sapevo. Sì, sta facendo tutto quanto il commercialista e beh, diciamo l'avrei fatto. Mi avrei tenuto quelle che ho. E ci sono anche le banche che anticipano questi soldi, ti mandano un tecnico nominato da loro e praticamente ti fa l'ispezione. Se però c'hai abusi diritti non ti conviene, perché ti fotografano gli abusi diritti e poi li portano all'ufficio delle entrate. Vabbè, io qui a casa, così non che sono in città, niente, no, l'ho detto, non mi interessa a me averci detto quanto, io sono amico e praticamente il 75% non fanno la fattura e io come scarico tutto la fine, 20.000 euro per prendere le dirette ne pago 1.000, quindi la fine. Vabbè, ti conviene sì. Vabbè, adesso va bene, si intende anche per dire sia una turba che non è tutto si fa il progettino, si presenta al comune prima di piazzarlo e poi si paga la metratura in più. Se per esempio ha messo una veranda anche con vetri scorrevoli, è un abuso di dice anche questo. No, perché? Non è tratta, però è il progetto da quando ho comprato a casa, perché se no non me l'avevo, se no non me l'avevo, il notaio non l'avevo comprato fatto quando non ha visto la firma del progettino. Niente, così, e infatti pago anche per quei metri quadri io, nonostante tutto che sia un po' giolo. Sì, sì, ma c'è molta gente che non paga per queste cose qua. Lo so, però quando prendi una casa con un mutuo, già difficilmente puoi, però finché la prendi da un privato, così, la compri da un privato di due soldi contanti, e ciccia, però quando ci rimetti un mutuo, ci rimetti un notaio, a me il notaio prima di darmi l'ok si è fatto tutte le ricerche, mi sono fatto attaccare, ha mandato un geometra, un pulito, questo, l'altro, misure, alla fine mi ha detto sì, va bene, si può acquistare. Buonasera a tutti, buonasera a te Antonio e a te Gianni. E ciao a tu, mi hai sentito cordialità anche a te, in compagnia di Antonio Riserva, avanti. E K, saluto Antonio Riserva, buonasera. Ciao Antonio, ben ascoltato. Buonasera, stavo sentendo un discorso. Parlate. No, parla tu adesso, parla tu. Ha già appena cominciato a intendere il discorso. E quindi non è che sono molto, perché l'ho appena acceso. Poi ho detto parla tu, perché io sto per andarmene via, sto per portare il cane, se sai che alle 8 vado. Cucciuccio, addormentato. 5 minuti, poi vado, faccio una bella doccia, poi mangio e poi mi gioco. Sì, così presto. No, io le 5 e mezza mi alzo la mattina. Io arrivo con Ghisciurano. E a quell'ora devo partire. Ma fuori vai? Sì, per questa settimana 2 giorni e poi sono bloccato. Vabbè. Su alle. Quello che non è, non è. Diciamo tu che adesso con questo cacchio di coronavirus se devi viaggiare, ma forse per lavoro ti fanno viaggiare. Sì, ma non è per il coronavirus, non è perché quando c'è questo problema così le persone sono interessate, i lavori vengono rallentati, anche come si dice i materiali che arrivano dal continente sono rallentati, perché noi prima arrivavano materiali ogni giorno, adesso stanno arrivando solo martedì e giovedì, stasera mi hanno chiamato e dice il materiale arriva giovedì, cioè prima il martedì e giovedì, adesso solo giovedì, tra un po' non arriverà più. Oh yeah. E perché anzi siamo un po' diciamo messi male il fatto che siamo in un'isola e siamo un po' estraniati dal resto del mondo, e quindi dobbiamo aspettare che arrivi la roba, se no se fui stato in un'altra città ti sarebbe arrivato subito. Lo so, ma il signor Conte si deve mettere in testa che mangiamo anche in Sardegna. C'era quel rumore? Era portante, un attimino di bianco, riprendi Anto, ho fatto un attimino. Devi vedere i in capo pure vedo qui. Cioè, ma cosa cazzo mi gioco, c'è tutti quanti macchi, per me bisogna un sacco di paure puro in mezzo. Andave. Vabbè. Cosa vi mando? Purtroppo noi non comandiamo, c'è lo Stato che ti dà comandati da loro e basta, siamo. Non abbiamo più libertà di espressione di nulla. Siamo proprio buchi mare, ma mare davvero però. Ecco, cioè, 2019 era così. Insomma, 2020 proprio da dimenticare, per carità. Ma come si fa sembra che ci giuiscono anche. Cioè, ne giocavano dei reparti, ma cura la gente, ma che maladie, ma puniti lungomedie. Ma dove siamo? Ma siamo diventati mancanti, siamo diventando cosa? Anto, fuori dal pronto soccorso i militari hanno costruito un ospedale da campo perché non c'è più posto dentro l'ospedale, è tutto pieno. Ah, guarda, se volessero il posto c'è, se vorrebbero, basta a Brescia Camillo, ci sono delle ali vuote, ci sono, alza quanti gente ci sta, invece di andare a pagarsi l'albergo. E pare un raio di pari, a cazzo vanno i conti, nei conti qualche altro ospedale ce l'hanno qua a Sassa di libero. Basta aprire quello invece di andare a pagare grazia dell'Eta. Anche non mi necessita tutto canto da cura e quindi mi lira. Cioè, ce ne sono posti, solo che non capisco perché stanno facendo questa mafia, perché è una mafia secondo me. Cioè, c'hai i posti. Se vuoi c'hai posti, letto, cazzo c'è gli agli ospedali, la USL c'è gli agli ospedali, cazzo mi vai a cagata, ma cosa siamo di zero? Anche a Rizzetti ce ne sono, dove c'è il manicomio? Ma lo sai cos'è il problema? Sì, vai. Che stanno ricoverando anche i finocchi. E vedi sono bene su periodo. Sto ricoverendo la campa di un guru. C'è più male caffè di mezzo di Chanel. Non avete ancora capito che tanto moriremo tutti. Mi batti la ciappia, lì. Muritevi sempre morì. La vita eterna non esiste, ma più in là possibile. Sì, vabbè, ma intanto come tutte le malattie già. Questa è la malattia del secolo. Come si moriva prima di questo, come si moriva prima di quello, come si moriva prima... Adesso si muore di questo, fra 100 anni ce ne sarà un'altra. L'AIDS, i tumori, l'epatite, io guarda, ho fatto 17 anni di servizio ambulanza e ti dico che ne ho portato con l'epatite, ne ho portato con l'AIDS eppure non mi gioco mai più da nulla. La verità è questa, naturalmente prendevamo le precauzioni, li caricavamo con lenzuolo, li prendevamo con lenzuolo e tutto, li mettevamo sopra la barella, non li toccavamo nemmeno. Hai visto, eppure sei sopravvissuto perché purtroppo funziona così. Quando devi morire, muori, punto e buco. È una questione di fortuna, è una questione di fortuna anche con questo virus, è una questione di fortuna, c'è chi lo becca e c'è chi non lo becca. No, diciamo che a beccarlo prima o poi lo beccheremo tutti, è che ci sono organismi che reagiscono in maniera diversa. E ci sono persone anche che non hanno testa, non mettono mascherina e se la cercano certe cose, se le cercano, se tu non obbedisci a quello che ti dicono, devi almeno cercare di evitare, dai, se ce la fai, poi se non ce la fai pazienza, però in ogni caso se tu ti prendi le precauzioni è più difficile che te lo prendi. Lo so, però il problema di chi non mette la mascherina non è che nuoce solo a loro, nuociono anche a te. Lo so che è così. E infatti li vengo, ho fatto, guarda, l'altro giorno ero col cane proprio di fronte al portone dove c'è quell'erba lì con il cane. Ne sono passati 3, 4, 5, tutti quanti senza mascherina. Perché non è come chi corre in macchina, perché tu vedi uno che sta correndo in macchina, perché c'è una strada, corre, vieni, tu vai e si chiude un gabbo nel muro. È la sola perché nella strada non c'è nessuno, però quando vai incontro a tante altre persone, devi fare conto anche dei danni che ti fanno. Ma la strada, per carità, uno può anche andare, c'è una campagna, per esempio, in campagna tua, tutto il giorno senza mascherina, nessuno ti dice niente, però se frequenti, se passi nei marciapiedi, comunque frequenta una persona, la mascherina te la devi mettere. Vabbè, certo che sì, certo che sì. Io addirittura tu, sarà una cazzata, ma non uso le dita nemmeno per premere il tasto dell'ascensore. Uso la chiave, perché ho paura. Lo so già, io potrei anche non mettere una mascherina, perché c'è le funzioni che sono alla fine. Non la metto, non faccio fatica a respirare, se faccio molta strada con la mascherina, però la metto lo stesso. Io ogni tanto ti dico la verità, l'allargo per far passare un po' d'aria, perché a volte proprio non riesco a respirare. E allora mi fermo un attimino, l'allargo appena, non lo respiro e poi la richiudo. Però sempre quando non ce la faccio, che proprio mi viene una specie di ansia, non lo so, boh, e mi fa così. Lo so, invece a me mi viene mal di testa, dolore forte agli occhi, ma dovremmo stare sempre con l'inalatore. Cioè, praticamente prima l'inalatore mi durava un mese, adesso mi dura 12-13 giorni. Oh yeah. Vabbè. C'è qualcuno che vuole entrare? Io no. Io ci sono io, papà, non lo so. Questa mi è piaciuta ancora, io no. Ci sei già ruta, già devi entrare tu. Già entra. Poi guarda, sono gustato, dottor rincoglionito. Aspetta che c'è uno che ti sta chiamando. Care, prima di dare tu in culo. Ragazzi. Sì, Adi, quanto? Oppure fate come giocatore di ping pong, prima la prende uno e poi l'altro. Sì, Adi. Oia. Ma ha riconosciuto la ragazza? Melumi, non lo so chi è. Aspetta un attimo. È così. E comunque non è mai male mettersela la mascherina. Io anche quando sono da solo, adesso per dire, a me mi hanno fermato, l'altro giorno mi hanno fermato i baraccini, no? Anzi prima per la verità hanno fermato una donna che stava buttando la mondezza, gli hanno chiesto i documenti, hanno visto che abitava a Ottava e gli hanno detto come mai stava buttando la mondezza via Bonorva quando abitava a Ottava, e quella gli ha detto perché io lavoro da una signora e mi ha chiesto la cortesia di buttare la mondezza, e cioè lo faccio per lavoro, e dice ah va bene, e poi stavo sedendo col cane, scusi lei il microchip ce l'ha il cane? Ho detto sì che ce l'ha, e voi come mai siete senza mascherina? Gli ho detto. Secco. Ma te perché non c'è assembramento? No, non esiste più quella legge lì. La mascherina vuole messa ogni qualvolta che uno esce da casa. Io ho ascoltato bene il telegiornale. Sì, vabbè, non c'è questo assembramento. E poi siamo io, la signora, voi due e già stiamo formando un assembramento. Così da giudizio. È stato zitto, non ha più parlato. Esatto, tu devi dire, tu hai fatto proprio bene, lo finisce, infatti, che fino a quando lei non mi ha fermato, l'assembramento non ce n'era, l'assembramento l'ha creato lei, quindi o se ne va o chiamo la polizia e gli dico che sta sembrando con me. ragazzi della bomba in quattro, due, i due colleghi, quella signora che hanno fermato io, e loro non senza mascherina, tutti e due, cioè non è una buona, e poi fermano la gente praticamente per mettere la multa per il cane, perché magari non c'è la museruola, perché ha pisciato, perché questo, perché l'altro, capito? Adesso ho trovato a me di aver pisciato io il marciapiede. Anche un attimo, fino a quando? Olbia, devi portarti la bottiglia, devi con lo pisciare, devi sfruttare l'acqua. Ah, pensa con la bottiglia, per fare il metro di pisciare dentro, fargli pisciare la bottiglia. No, la bottiglia con i buchi nel tappo, mi fai dei buchetti nel tappo, quando pisciano, mi fai, ributti un po' l'acqua. Siccome il mio ne fa 15 di pisciate, non so se la bottiglia basta. Vabbè, tu portati un bidone, se lo metti a tracolla. Ma dimmi tu, cazzo, non sei mai visto una cosa del genere. Certo che chi fa fare la cacca nel marciapiedi, quello lo odio anche io. Perché quando la fa il marciapiedi, il mio non la fa mai nel marciapiedi, è difficile. Ma qualche volta le scappa. Se la fa, prendo la bustina, su e si la lampo. Se no va in mezzo all'erba. Guarda, già, io lo so, sono molto a me gli animali. Già. Però non odio gli animali, io odio più il portafoglio. C'era un signore qua di fronte a casa mia, non usciva col cane, usciva la porta della mia macchina e poi cagava sotto la porta. Tutte le macchine, una macchina, sono rotto il coglione, ma non me lo so se era fare la macchina, mi ha fermato, le due sono le cose. O domani mattina cambia zona, andiamo. Oppure io, domani mattina, appena mi alzo, dopo che ho preso il caffè, vengo a cagare sul tappeto della sua porta. Senta lì. No, ma sì, ma infatti questa gente qui, se poi non la raccoglie è brutto, dai, no. È ineducato. Io una volta dalla finestra di casa l'ho visto, questo qua, il cane ha cagato proprio in mezzo alla strada, e lui è andato dritto. Cioè, sarebbe da fotografarla questa gente e poi fargli fare la multa, perché cioè, lo sai, non c'è le bustine, perché non le usi? Lo so già, ma qui non si tratta di strada, lui praticamente lo faceva cagare nell'angolo, una rientrata tra un palazzo e l'altro, non c'è una sveglia, sotto la finestra della mia camera letto, che non vai? Cioè tutti i giorni la stessa cosa. No, io vabbè, no, così non va bene, poi ha cambiato zona. Ma non si è più visto, non ho più visto neanche a lui, spero che ha cambiato anche a casa. Oh yeah. E l'altro giorno sai cosa è successo vicino a casa? Questo qua, a parte il coso dei cani, questo qua si è fermato con la macchina, è sceso dalla macchina, un infarto e c'è rimasto. Davvero, così di colpo? Di colpo, deve essere, se si è sentito male e ha fermato la macchina per quello. Come è sceso dalla macchina dice che si è falato come un sacco morto, in terra così, sono andati, morto, l'hanno chiamato l'ambulanza, tutto quanto, non c'era niente da fare, infatti c'era 113, insomma un po' di gente, hanno chiuso la parte, è successo dove c'è all'inizio di via Nulvini, dove ci sono i cassonetti. Ho capito, comunque secondo me rimane sempre una delle morti migliori, a parte il fatto che sia morto per strada. Lo so, ma Antu, sicuramente se ne è accorto, perché se ha fermato la macchina se ne è accorto che non stava bene. Continuiamo in fatto, già. Qualche dolore al braccio lo accusi, qualche dolore al braccio pure, difficoltà comunque nella concentrazione, cioè un po' te ne rendi conto. Sicuramente era una persona informata. Infatti hanno detto che ha avuto la potenza di riflessi, poteva causare problemi agli altri, a lui non tanto, perché vabbè era morto, ma causava anche problemi agli altri, si sbatteva con la macchina, cosa. Ma magari semplicemente non era cosciente, magari si è sentito che non stava bene, si è fermato magari per chiedere soccorso, per chiamare, e non ce l'ha fatta. Non si può mai sapere, però ripeto, ormai c'è tanta informazione su questa malattia, infatti da infatti, così una persona le avvisa, gliele conosce. Certo. E anche soffocamento è brutto. Io una volta stavo soffocando ed ero da solo. E meno male che avevo fatto servizio ambulanza, sapevo fare massaggi. Se no ero gribato. Già, lo sai, no? Cosa succede? Ci vuole di tante cose diverse, tutti sono però molte volte molte persone se la cavano perché? Perché hanno al momento vicino altre persone che magari sai, è come quelli che vanno al mare, no? Che stanno affogando e trovi quello che sa nuotare che ti salva, oppure magari in quel momento c'è il bagnino che ti prende per i ciuffi, o c'è, che ne so, hai un infarto, c'è magari un medico, un infermiere che ti soccorre. E in molte case invece non c'è nessuno che ti dice. Sì, a me mi è successo con un ossicino del coniglio. Stavo per crepare, allora se gli occhi fuori me ne sono usciti. E mi sono massaggiato nella spalliera della sedia. Ho compreso verso lo stomaco e l'ho fatto buttare fuori così con le compressioni. Ma lo sai quanto c'avevo? Avevo un po' di coso, ero un po' di panico c'avevo, capito? Quindi sai, quando c'è il panico non riesci più a fare un cavolo, anche se le sere cose magari non riesci a farle. Ma mi sono andato a fare io, perché sennò guai. Con l'ossicino mi è bastato, dopo l'ho vomitato, l'ho sputato fuori, però basta un ossicino che ti fa crepare. Lo so, ma in quel momento non è solo una questione di panico, perché quando comunque subentra il panico i parametri si variano, quindi subentra la tachicardia, subentra quello, difficoltà della deglutizione e tante altre cose. Ma infatti una cosa tira l'altra, quando c'è questi attacchi qua di panico, poi non sai cosa fare, anche se tu sai cosa fare, nel momento hai quest'ansia, questa cosa che non ti fa lavorare come devi, capito? Ma nel momento ce l'ho fatta perché sono riuscito a comprimere lo stomaco sulla sedia, capito? Sulla spalliera della sedia, e ce l'ho fatta. Abbiamo fatto quel famoso massaggio che si fa quando stai affogando, no? Con il pugno, ce l'hai presente. Qualcosa bisogna pur fare, qualcosa bisogna pur fare. Poi se ci riesci, ci riesci, se non ci riesci, pazienza. Se non ci riesci te ne accorgi, eh? Se non ci riesci grippi. Infatti te ne ha detto, te ne accorgi. Oh ia ia. Riprendi a tu. Perché queste lezioni di pronto soccorso, BLC, BLS, cioè servono per queste cose qua? Perché quando fai questi corsi sai come ti devi comportare. Che noi lo stiamo facendo queste cose qua, le cose minime, dai. Lo stato di shock, la persona a sudorazione fredda, tutte queste cose qua. Ce lo stanno facendo fare a scuola guida. Cosa devi fare in caso una persona, cioè, succede un incidente, entra in stato di shock, tutte queste cose. Ma lo sanno cosa ci hanno insegnato? Che quando una persona non sa fare certe manovre, certe cose, è sempre meglio chiamare i soccorsi e non toccare le persone, almeno che tu sappia dove mettere le mani, allora sì. A me tu, una volta andando a pescare, visto dove c'è il ferruvicchio, il primo ferruvicchio andando sulla Budibuti, lì in quel curvino lì, casa alle 4 di mattina, un incidente frontale mi sono trovato, appena successo, non c'era nessuno. Io mi sono trovato 2-4 persone incastrate nelle lamiere, una ragazza che praticamente era sotto il sedile, di davanti, il sedile tutto in avanti, e lì incastrata, il ragazzo che era incastrato nel volante, gli altri due che erano cotti che pippa sono usciti dalla macchina e sono svenuti, sono quelli che gli sono andati addosso. Meno male che si è fermata una macchina dove c'erano due miei colleghi deciso che stavano tornando da ballare, e ho chiesto un aiuto, poi abbiamo chiamato i soccorsi, li abbiamo tutti fuori, eccetera. Il tipo, quel ragazzo, non siamo riusciti a toglierlo fuori perché è incastrato nel volante. davanti, sono dovuti arrivare i pompieri. Poi io me ne sono andato dopo che sono arrivati tutti i soccorsi, perché stavo andando a pescare, però sono andato con un animo, credimi, cazzo, che era agitato al massimo. Però lo devi fare, già. La noi, cioè, la legge obbliga che li devi prestare soccorso. Poi a tua maniera, per quello che puoi fare, però devi prestarli soccorso. Io una volta ho trovato una donna con la macchina in fiamme vicino a Graziella e ci aveva tutto l'incasso del negozio dentro. L'incasso, lasci stare l'incasso, tutti quanti che stavano fermi a guardarsi la macchina incendiata, sono andati e giocava da vura. E poi lei era preoccupata per l'incasso del negozio, dice che c'era tutto l'incasso del negozio dentro. Una macchina che poi tra l'altro ha detto, dopo ha detto che era a gas la macchina, come sono arrivati i pompieri subito gli ho detto guardate che è una macchina a gas, e occhio. Ha detto grazie, grazie, sicuro, sì, sicuro. Cacciano subito, da lontano l'hanno spento. Le macchine a gas sono un casino, io ce l'ho tutti a gas. Se non chiudi il lavabo per essere battuto, cazzo diventa una mina pagata. No, ci sono le valvole automatiche adesso tu. E io, la mia ne ha tre di valvole automatiche, che si chiudono da sole in caso di incidente. Poi se solleva la temperatura nella bombola, già, poco da chiudere c'è. E comunque, diciamo che quando ti trovi adesso per dire, c'ero come spirito, quando mi vedono in gente mi fermo per aiutare, però adesso non lo potremo anche più fare perché il BLS, il BLSC, il corso di trauma vanno fatti e rinnovati ogni due anni, io non li ho più rinnovati, quindi non posso più operare. No, ma poi ormai con la nuova legge non conviene più. Sì, per carità, ti fermi, dai un soccorso, nel senso, maniera, come si dice, blanda, così, verbale, aiuti, se magari qualcuno ha bisogno, adesso, di qualche altra cosa, di chiamare qualcuno, però toccare le persone durante un incidente, meglio no. Anche perché ci vogliono le attrezzature, se tu devi tenere una persona traumatizzata bisogna mettere il ragno, bisogna mettere la traumatica e insomma ci vogliono gli attrezzi per toglierla fuori, a meno che tu vedi che la macchina sta incendiando allora la togli fuori, per forza la togli fuori così. Lo so, però bisogna vedere anche già in quella situazione lì cosa succede. Lo so cosa succede, Antu, cosa deve succedere, più che salvarla togliendola fuori non fai. Tutto quello che li puoi causare, magari devi stare attento se c'è un femore rotto, per dire, perché c'è l'arteria femorale, secondo che frattura c'ha, li puoi lacerare l'arteria femorale, lì ci può morire di emorragia, devi stare attento molto a queste cose. Vabbè, ma vedi che abbia un problema al bacino e tu come lo tiri fuori dal sedile, lo rendi paralitico, quello a te ti chiede i danni poi. Anche se le sabato non le chiamo, se mi potete dire no, ma magari l'ambulanza se veniva in tempo, a me mi toglieva fuori, io non rimanevo paralitico. Quindi alla fine davvero, non sai come comportarti. Lo so, ma se tu sai le prese che si fanno, allora praticamente se hai pantaloni si prende per i pantaloni, per la cintura dei pantaloni e uno ti deve mettere la mano sotto la testa e sotto la spalla, sotto, che prenda la spalla e la testa, di modo che lui si tolga tutti e tre insieme, al tre si toglie fuori. E si fa così, quando non ci sono attrezzi bisogna lavorare in questa maniera qua. E quindi già lo mettere insieme in due, due attrezzati, due comunque idoni e due abilitati. Qui se venne un po' caldo troppo forti, no? Chi è? Chi è? Tu voglia. Magari c'è voglia. Ah, uè. Parla. Parla con muro. Hai finito di rompere, ti mangio i carabinieri, ti mando. Santua, tu ci dato di segnare chi fa i nocchi. Sul tre mi stai arrivando, la massa di Vivaria. Esagerato, mi ha detto che stavo scendendo male qui. Cazzo male? Vabbè, sul tre mi stai arrivando, veramente. Qui ci vuole un video. Ma sul tre di rompere, sul tre, tra il tre e il quattro. No, sul tre c'è più, c'è il più e poi il tre e lo zero. Non dico che sia il DB, cazzo, però sul tre mi stai arrivando. Quella che con la boomerang questa canto anche a forse boh, già parla tu un attimo, prova 1 2 3 prova adesso segnale di Gianni c'hai, ciao Antu, ciao. c'ha bomba, lo venuto da va. Sì, vabbè, non c'è anche la posizione. Bel segnalone, Antu, bello, bello, bello. Quante giorni mi arrivi? Grazie, qua. Ma non ti trovo, ti do un bacio in bocca. No, no, no, Antu, c'ho la lì tu, se non ti conviene. Ma i denti te li hai fatti mettere tu? No, ancora no. Però no, ti bacio in bocca, a me baciare in bocca senza denti non mi piace. Ma tu devi fare. Viene meglio, ti succhia la lingua. No, ci ho provato una volta con una signora che vendeva le muri dietro casa mia, no, ma non ci ho preso gusto. Antu, 7500 euro non ce li ho. Cazzo, ma non vedi, oh vabbè, io ce l'avrei anche, ma non per il dentista. Cazzo, sono troppo gari. Tu pensa che io ho fatto un preventivo anche in Zagabria. Praticamente parte dai 5.000 ai 60.000 euro. Dice, se vuoi una denti perfetti fatti bene come Dio comanda, 60.000 euro. Capo di cazzo. Ma tu non gli hai detto che 60.000 euro neanche tua madre ti ha pagato così. E ti ha fatto l'inizio. Infatti. Ma niente neanche a casa. In Croazia hai provato. In Croazia, 60.000 euro. No, vabbè, proprio denti, ne ho fatto un paragone, cosa ne so, una Fiat Punto, un esempio, una 500, una Ferrari, capito? Così. E da 60.000 euro è una dentatura proprio doc. Lo so, Lu, però io ti capisco, non mi è andato in centro, anzi, non mi ha fatto fare. Io ti capisco, però lo faccio anche per il discorso di, ma questo discorso della dentiera, della dentatura tra Ferrari e 500 la puoi fare se uno ha avuto, che ne so, una malattia a 20 anni e non ha denti. Ma la nostra età, un bacio di parenti e mamma si già, cosa te ne appunti? Ecco per me. Oh Lu, hai provato quello sardo che è Moldavia? Mi sa che proprio la segretaria ha fatto quello preventivo lì. Comunque intorno ai... Vabbè, io devo fare la ricostruzione dell'osso, che purtroppo poco osso mi ha detto, la panoramica. Praticamente i perni non reggono, non so, così poi devo fare una costruzione dell'osso e mi costa dai 2.500 a 3.000 euro. Ho capito. Vabbè. Tu, ti devi mettere il cuore in pace, se no tipo una dentiera scorrevole. È basculante. Dopo quando mangi ti si attacca la vena, te l'immagini? Schifo. No, ma il bello è quando va a musicare il torrone, che si aggancia una dentiera all'altra. E hai detto sì l'ingegnere, che cosa? Davvero, mica, se ti si incassa nel gonno. Se ti rimane appesa alla manadana. ridi. Io per carità, no, veramente cazzo 12. Allora, preventivo era proprio finito 16.000. Da 16.000 a 12.000, da 12.000 mi ha fatto 11.000. E tu non gliel'hai detto, se avessi avuto 11.000 euro non avrei neanche contattato. Al discorso io ho detto, tu cazzo, che con quei soldi mi compro una macchina. E lì mi ha detto, hai ragione. Lo so. E lì non te l'ha detto, ma poi quando ha fatto il preventivo ti metti a sorridere, se ne accorgono che non hai denti. Infatti anche quello non me l'ha detto, ma per dire, quella cifra lì, cazzo, una macchina ti compri. E vabbè, dai, già risolviamo, dai, adesso vediamo un po', anno nuovo, vediamo cosa ne esce, se no, cazzo, ammazzo un cane, mi mangio questi rugani. Prova ad andare vicino a casa, a vedere quanto ti prendi, ti fa fare un preventivo. Sì, ti fa fatto a te? Cazzo, non te li prendi due qua sopra? Cosa? Quanto avevi speso per su? 12. Cazzo, a me mi hanno fatto questo qua, Sassari, le prove mi fai i zigomatici, purtroppo, perché non ho, se vuole fare la prova a lui, per vedere se tiene, capito? Lo sconto, allora, 7.500, con lo sconto 7.000. Ma ti buoni bucari, devi guardare anche il materiale, se ti mettono un rigida si ingialliscono, ti si fanno con quelli dei vecchi, non metterli in resina perché non servono a nulla. Lo sai chi è molto bravo? Come si chiama? Non mi viene, lasciami pensare. Oh Lu, ma non lo conosci tu questo del cimitero? No, è morto purtroppo, no, se no io lo conosco. servo. Cazzo, non siamo quanti mi seppelliscono con la dentiera. Tanto prima o poi uno la ciappe. Anche chi si denti i denti veri, quindi tipo che va a testa, ti fai munire di giolti. No, ma dico, anche la dentiera. Se la provi, perché non mi va bene, ma alla fine non arriva a terzo, ti fanno avere la ciappe. Luca! Sì, sì. Luca! Eh? Vai da Basente, quello che c'è in Via Alghero, che è molto bravo, molto bravo. Vai lì, vai. Ed è anche onesto. È anche onesto. E ti mette materiale come si deve, si studia tutto al computer, ti va già a un vedi voci, perché è viticoloso, però è molto bravo. Ma qua ti sparano un sacco di soldi già. Ti sparano un sacco di soldi.